come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, 18:34, 800 24 00 24 è il numero verde per chiamarci in diretta, come sapete. Se volete scriverci un messaggio, il numero invece è un altro, 349-238-6666. C'è un altro indirizzo per le vostre mail, che è lazanzara@radio24.it. TG2. Il nord sotto un manto bianco, disagi negli aeroporti di Linate e Caselle, migliaia ai tirafermi in Liguria. Il Viminale consiglia di mettersi in viaggio solo se indispensabile. Giornata di sciopero in Grecia e sono continuati gli scontri tra studenti e polizia. Lanciate bottiglie e molotov contro gli agenti accusati di omicidio. A Reggio Calabria arrestato il boss Giuseppe De Stefano, capo cosca dell''Ndrangheta. Viveva con la famiglia in un appartamento in centro, era uno dei 30 latitanti più ricercati. Truffa in Calabria, infermieri con falsi diplomi lavoravano in ospedali e cliniche private, alcuni di loro anche in sala operatoria, 72 gli arresti. Il grande caos sulla giustizia. Vi prendo due notizie di oggi. Innanzitutto l'Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato dei magistrati, esiste solo in Italia, diciamo la verità, questa è una mia parentesi, a rischio le indagini di mafia. L'indispensabile strumento, dice il segretario dell'ANM Cascini, non potrà essere usato per tutta una serie di reati compiuti dai mafiosi, e dunque l'ANM respinge la riforma, che ancora non è stata presentata in realtà, del governo sulle intercettazioni telefoniche, il cui numero, come sapete, in Italia è molto elevato. Nello stesso tempo il presidente della Corte d'Appello di Milano, che si chiama Grechi, dice: i magistrati in Italia meglio se li eleggiamo come negli Stati Uniti, tanto sono già politicizzati. Studio aperto. Da anni non si vedeva un inizio d'inverno così. Da nord a sud l'Italia alle prese con una forte ondata di maltempo. È bastata una nevicata a mandare in tilt, nonostante gli avvisi, il traffico in Liguria. A Ventimiglia fermi un migliaio di tir. Avviata un'inchiesta su ritardi e disagi anche negli aeroporti. Domani prevista acqua alta, record a Venezia. Manette a 67 infermieri, 159 persone indagate, si allarga lo scandalo dei falsi diplomi in Calabria. Un faccendiere era il cervello della truffa, coinvolto un funzionario dell'Università Sacro Cuore di Roma. In vendita anche i test per l'accesso alla facoltà di medicina e dalle intercettazioni emergono pure richieste di sesso in cambio di favori. La notizia che il giovane Alexis sarebbe stato ucciso da un colpo di rimbalzo non ferma le violenze. Bene, 18:37, 800 24 00 24, sempre il numero per chiamarci in diretta, come sapete da subito, i vostri interventi se volete. Iniziamo ridendo. Maurizio Crozza su Brokeback Mountain. A proposito di Mountain, ma perché hanno censurato Brokeback Mountains, no? Ma io non capisco. Ora io dico, non vuoi far vedere gli omosessuali che si baciano? D'accordo, non vuoi farlo vedere. Vabbè, ma allora proietta Bambi. Ma cosa trasmetti in Brokeback Mountain? È come se in Gola Profonda facessero vedere solo le scene in cui lei scende dalla macchina. Non funziona. E poi, cazzo, censuri un film che ha vinto 3 Oscar e poi mi lasci vedere Fiorello e Del Noce che si baciano. Che cazzo hanno vinto Fiorello e Del Noce? Il telegatto! Va bene, questa era Crozza sulla questione della censura, tra virgolette, al film che ha vinto tanti Oscar sulla Rai. Veltroni, ancora sulla questione morale, però non ne parliamo stasera, per carità. E comunque Veltroni dice: Berlusconi è l'ultimo a poter discutere di questo tema. È venendo in Abruzzo che il Presidente del Consiglio ha detto: esiste una seria questione morale nel Partito Democratico. Se c'è uno che non può usare questa espressione è il Presidente del Consiglio di questo nostro paese. E mi fermo qui. E si ferma qui Veltroni, che è in Abruzzo a fare campagne elettorali. Intanto non si capisce quale sarà la sorte del governatore della Campania Bassolino. È chiaro che c'è un braccio di ferro, lo diciamo da tempo. Sentite per esempio quello che dice il segretario del PD a Napoli, che non è dunque uno di passaggio, ma è quello che gestisce in teoria per conto di Veltroni le sorti del partito in una grande città. Si chiama Nicolais e dice: Bassolino, questa mattina a viva voce, Bassolino è ormai logorato. devo dire che è stato un grande leader, è stato un grande leader che ha dato dei segnali forti sia quando ha fatto il sindaco per la prima volta sia quando ha fatto il presidente della regione. Purtroppo poi col tempo si è un po' logorato. Nicolais, si rende conto che ne sta parlando al passato? È stato? Eh sì, purtroppo è così, perché oggi abbiamo delle difficoltà. Uno dei grandi problemi che abbiamo a Napoli è che c'è ormai un sentire comune di una voglia di cambiare, una voglia di cercare di innovare il sistema, e il rapporto si è logorato, e questa è la ragione per cui oggi discutiamo anche di un rilancio delle amministrazioni. Insomma, la situazione è quella che tutti voi avete sotto gli occhi, una lotta all'interno del Partito Democratico, Bassolino che resiste, Veltroni che lo vuole fare fuori ma non ci riesce. E Nicolais dice: non credo che si candiderà neppure alle europee, Bassolino, sentiamolo ancora. Bassolino ormai l'anno prossimo va via, io credo che non abbia nessuna intenzione di essere candidato europeo. Io penso che questa è stata un'esperienza importante per il territorio che mo è andato a finire, diciamo anche lui stesso dice che è un ciclo che va a chiudersi, quindi non penso che ci siano delle possibilità di una candidatura europea. Questo Nicolais, con reazioni varie, favorevoli e contrarie a questa parola all'interno del Partito Democratico sulla sorte di Bassolino, che sta diventando ormai un vero e proprio tormentone. Vi voglio far riflettere però su una frase che ha detto il capogruppo al Senato del Partito Democratico, che si chiama Finocchiaro, come sapete, che dice: chi è sfiorato da inchieste faccia un passo indietro. Ripeto, chi è sfiorato dalle inchieste deve fare un passo indietro. E andiamo a parare naturalmente dal principe di queste teorie, che è Antonio Di Pietro, strepitoso, direi strepitoso, in una trasmissione questa mattina su Radio 3, Faccia a Faccia, condotta da Gian Antonio Stella. Cosa ha detto Di Pietro? Un paragone con l'Illinois, cioè con l'arresto del governatore molto vicino a Barack Obama per aver cercato di vendere un seggio con intercettazioni, eccetera, eccetera. Sentite Di Pietro. Immagine se fosse successo in Italia. Immediatamente la classe politica avrebbe detto: quel magistrato comunista, fazioso, che si è messo a entrare sulla questione politica e sui politici. Ci sarebbe stato questi gli amici di questo governatore. Gli avversari avrebbero detto: ha ragione, c'è bisogno di una riforma sulla giustizia. Subito dopo avrebbero detto: non si può più avere quel procuratore, dobbiamo cambiarlo. Lì lo possono anche fare, perché tanto viene nominato direttamente. In America nessuno viene in mente che quando questo procuratore ha incriminato un politico, la colpa è del procuratore. A nessuno viene in mente di togliere il fascicolo dal procuratore. A tutti viene in mente di dire: che porcate che ha fatto questo, allontaniamolo dalla politica. Sai dove l'hanno messo questo signore? In galera. Da noi sai dove lo mandano? Nelle istituzioni, a farsi le leggi per non farsi processare. Capite come funziona la storia? Ma qui le intercettazioni che lì vengono fatte, sei mesi capire, fatto, senza... sei mesi. Esatto, per sei mesi su questo era un governatore in carica, e mentre parlava anche con Obama. Qua, se l'avessero fatta, oggi staremmo discutendo di come modificare l'intercettazione. Là stanno discutendo se metterla a Guantanamo o a Alcatraz, capito? Alcatraz non c'è più. Ma ce lo fanno apposta, Beh, è straordinario. Questa di Guantanamo ed Alcatraz, come dice Di Pietro, resta, dopo ve la faremo sentire come una sorta di loop continuo, perché insomma è strepitoso. Cioè, là, poi non è vero, perché è stato già scarcerato sotto cauzione di circa 5.000 euro, dunque non è vero che stanno cercando di metterlo, che lo mettono o a Guantanamo oppure ad Alcatraz, come dice Di Pietro, perché è già fuori. E però Alcatraz è bellissimo, lo stesso Stella rideva giustamente per questa cosa. E sempre Di Pietro, su un altro argomento, sempre su questi temi naturalmente, che sono quelli tipici di Pietro, a un certo punto l'intervistatore dice: beh, insomma, bisognerebbe abbassare i toni forse, no? Qualche parola è eccessiva. Per esempio, lei continua a dire che Berlusconi è un corruttore politico. Sentite come reagisce Di Pietro. Ma io non voglio continuare a parlare di lui, perché mi fanno le domande su di lui e poi dicono che parlo sempre di lui. No, però, scusi, onorevole Di Pietro, però uno dei problemi della politica italiana è che a volte i toni sono troppo alti. Allora lo dico piano piano: per me è un corruttore politico, è uno che si compra la politica per conto suo, ma non lo dico alto, perché sennò c'è un tono alto. Beh, sono queste due cose, Alcatraz e questo Di Pietro che sussurra, che fanno schizzare Di Pietro nei sondaggi all'8%, come sapete. Sono almeno i sondaggi pubblicati sui giornali negli ultimi giorni. Prima del traffico c'è un'altra cosa, perché il generale speciale è stato, ricordate, il generale speciale, quello della guerra contro Padoa-Schioppa, anzi del conflitto molto forte che ci fu tra Padoa-Schioppa, Visco, lo stesso generale speciale, che va verso il rinvio a giudizio per vari reati, peculato aggravato e abuso, per la storia dell'utilizzazione di aerei della Guardia di Finanza per portare anche le spigole e parenti in montagna, parenti naturalmente dello stesso speciale, anche amici, oltre ai parenti. Così si difese speciale a Porta di qualche tempo fa. Io li ho usato secondo le norme che sono scritte nelle procedure di impiego degli aerei della Guardia di Finanza. Sono il comandante generale della Guardia di Finanza, ma se ne usavo io i mezzi aerei della Guardia di Finanza, chi li doveva usare? L'impiego per trasporto di autorità, per impegni istituzionali di servizio, è codificato nelle norme di procedura di impiego dei mezzi della Guardia di Finanza. E io, che sono il numero uno e sono stato il numero uno della Guardia di Finanza, mi sembrava di essere più che legittimato a poterli impiegare, ovviamente per esigenze di servizio. Naturalmente è proprio su queste esigenze di servizio che si basa il rinvio a giudizio che arriverà, che sembra stia arrivando per speciale. Sono tempi complicati, anche se il Sole 24 Ore in prima pagina fa notare che c'è una cassa integrazione record e nello stesso tempo alberghi al completo, stranezze della crisi. E forse in questi tempi bizzarri, in questi tempi, se vogliamo, di crisi, come dicono tutti, ci vorrebbe anche qualche segnale da parte della politica. Sembra non venire dalla regione Veneto, considerata una delle più efficienti in Italia. E allora saluto Diego Cancian. Buonasera Cancian. Oggi duramente, in maniera anche simpatica, attaccato da Gian Antonio Stella in un articolo sul Corriere della Sera. Allora, lei ha creato un gruppo autonomo formato da se stesso, da una sola persona, cosa che è possibile fare, secondo me è assurdo nei consigli regionali, sostanzialmente, scrive Stella, perché ogni gruppo ha diritto a 3 dipendenti, un ufficio, prebende, rimborsi e cose varie per un totale, leggo testualmente, di 200.000 euro all'anno. Come si difende, Cancian? Ma io non ho bisogno di difendermi, Giantaglio Stella è male informato e purtroppo questa è una delle cose che trasmettono un giornalismo fatto di articoli di vendite e non di contenuti e di sostanza. Cosa c'è di sbagliato? Cioè, cos'è che non è vero in quello che scrive? Cioè, non è vero che lei ha fatto un gruppo autonomo? No, è vero che io ho fatto un gruppo autonomo, un gruppo consigliare, cosa che non ho fatto perché sono diventato matto, ma perché c'è consentita dal regolamento. Beh, su questo non c'è dubbio, nessuno lo mette in dubbio questo. No, ma invece l'articolo di Giantonio Stella sembrava che l'avessi fatto così, ma a parte quello... No, mi scusi però Cancian, da questo punto di vista Stella non è che sostiene che non è legittimo fare un gruppo autonomo, sostiene che è una follia però. Nel momento in cui lo sostiene perché io l'ho fatto per... avere degli impiegati, lei capisce che non è quantomeno corretto, perché non mi ha mai chiamato, non mi ha chiesto perché l'ho fatto, per cui sarebbe stato buon gusto informarsi prima del perché. E le motivazioni politiche quali sono? Le motivazioni politiche sono che secondo me il gruppo a cui appartengo ha un modo di fare la politica che non è più quello per cui noi siamo stati eletti, per cui non riuscendo più a trovare una mediazione accettabile, il regolamento del Consiglio regionale Veneto ce lo permette e ci siamo staccati. Io ripeto, sono il suo gruppo era Progetto Nord-Est. Esatto, io non sono il terzo, ma sono il quarto consigliere che fa questo nel Veneto, anche questa è un'informazione. Ma no, ma è che non è una giustificazione, però, naturalmente. No, anzi, forse dire, una. Complicata. Siccome questa cosa sembra che sia nata ieri, invece è cominciata nel 2006, che Gian Antonio Stella se ne accorga ora, dopo che sono stati fatti 2 gruppi del centro-sinistra da uno e uno del centro-destra da uno. Lei capisce che quantomeno... Ma qui non stiamo parlando di Stella, però Cancian, io ho citato Stella perché c'è un articolo oggi sul Corriere della Sera, ma il punto non è quello, il punto è un altro. Secondo lei, a prescindere dai suoi problemi con l'altro rappresentante del progetto Nord-Est, le posizioni politiche, per affermare le proprie posizioni politiche, è così necessario formare un gruppo autonomo formato da una sola persona? Sì, perché l'autonomia ti dà la possibilità di poter firmare le cose che vuoi, non avere un capogruppo a cui dover rendere conto, e questo la gente forse se non la si informa non si sa, che ti impedisce in maniera bonaria, nel senso che se non firma lui le cose non le puoi fare, per cui non puoi fare le azioni che tu credi e che tu vuoi fare. Per cui o trovi una mediazione e un accordo, oppure devi per forza andartene e fare le cose per conto tuo. Ho capito, ma c'è un aggravio di costi, lei se ne rende conto? Non saranno cifre eccezionali, ma c'è comunque un aggravio di costi per la collettività, se è vero che i gruppi consigliari costano circa 5 milioni e 600 mila euro l'anno a una regione come il Veneto, no? Ma guardi, a una regione come il Veneto, che è quella che paga lo stipendio dei consiglieri è il più basso in tutta Italia, per cui, se devo essere sincero, il Veneto la sua parte l'ha già fatta da un bel po', perché i consiglieri regionali del Veneto sono quelli che prendono meno in tutta Italia. Sì, d'accordo, però tornando al punto principale, Ganciano, mi scusi un attimo, secondo me il punto principale è questo: un gruppo formato da una sola persona, che senso ha? Un gruppo come un gruppo parlamentare, anche un gruppo consigliare all'interno di una regione, non ha nessun senso, e il fatto di avere a disposizione un ufficio, una segretaria, non sarà una cosa eccezionale, ma ha un suo peso nella decisione di creare un gruppo autonomo o no? Allora, ha sentato un suo peso, ma se vengono eletti con un gruppo solo, non capisco perché lei dice che non ha il senso di esistere. L'Infondazione Comunista e i Comunisti Italiani sono eletti con un gruppo solo, una persona in gruppo, punto. Fine. Ed è così dall'inizio di legislatura. Per cui, cioè, vuol dire, poi il costo non è 200.000 euro, perché quello che io tolgo all'altro gruppo viene portato... Pronto? Mi sente? Sì, la sento bene. Viene portato nel gruppo nuovo, per cui non è che io aggravio la regione di 200.000 euro, la differenza è circa 65-70.000 euro, ma che comunque, ripeto, è comunque un aggravio, per carità. No, ma lei è molto onesto ad ammettere che è un aggravio di costi il fatto di creare un gruppo unico. Lei dice esiste sin dall'inizio, ma non per questo è corretto, cioè secondo me ci dovrebbe essere un limite, si cerchi un modo di fare un gruppo unico per far risparmiare dei soldi alla regione Veneto. Ma come un gruppo unico, scusi? Un gruppo unico di tutti, da parte di gruppi diciamo più vicini, di persone, di consiglieri più vicini, dovrebbero creare un gruppo unico con le stesse, insomma, a fare gruppo unico non significa mica dover stare zitti su tutte le cose, ognuno poi può esprimere le proprie opinioni, le proprie idee, lo stesso. Ma forse lei non sa come funzionano queste cose, ma le ripeto, il capogruppo è quello che firma e decide moltissimi degli atti che fa un consigliere. Per cui se non c'è sintonia devi trovare una soluzione. Sì, c'è anche il gruppo misto alla Camera, come lei sa, per cui in cui ognuno esprime le proprie opinioni senza dipendere da un capogruppo. No, ma anche no, sbagliato. Anche il gruppo misto ha un capogruppo, vede, si deve informare. No, d'accordo, ma per questioni formali in quel caso alla Camera, ma non per questioni poi, sostanziali. Come i soldi del gruppo non possono essere spesi per le attività dei partiti o dei movimenti. I soldi dei gruppi consigliari, in questo caso io conosco molto bene questi, per cui mi limito a questi, ma presumo che valga anche per il Parlamento, va bene, possono essere spesi solo ed esclusivamente per l'attività del gruppo consigliare. Sì, però Canciani, il problema è questo: alla Camera si può arrivare anche con un solo eletto, si poteva arrivare più o meno nella passata, però c'era un limite, e anche nelle regioni dovrebbe esistere questo limite. Cambiamo la norma, condivido, ma allora cambiamo la norma. Sì, certo, no? Bisognerebbe cambiare la norma, faccia qualcosa per cambiare la norma, però evidentemente lei è d'accordo sul fatto che possono esistere monoconsiglieri, consiglieri unici. Guardi, io ho già fatto questo, non solo, ma oggi ho anche proposto che i dirigenti e i funzionari delle regioni non possano percepire uno stipendio più elevato dei consiglieri regionali, ai quali viene giustamente detto che prendono già bene e stanno benissimo. Allora, pur essendo noi quelli che prendono meno in tutta Italia, le confermo che stiamo benissimo. Allora, non capisco perché i dirigenti e i funzionari delle regioni devono prendere una volta e mezza o il doppio dei consiglieri regionali. No, ma questo è un altro discorso su cui possiamo anche essere d'accordo. Io la ringrazio molto, Ganciano, di essere stato con noi. Grazie. 18:54 e 40 secondi. Flavia da Messina, 800 24 00 24. Flavia, buonasera. Buonasera, io vorrei fare una domanda a lei, ma lei in che paese pensa di vivere? Non è che siamo in un paese anglosassone o Svezia o Danimarca dove tutto succede alla perfezione, ma senza intercettazioni telefoniche non avremmo mai scoperto il malaffare che c'è in Italia. Ma perché lei lo dice a me? Scusi. Lei sa chi è? Ma perché lo dice a me? Carlo Rosselli. Ma no, faccio una domanda. Lei sa Carlo Rosselli già nel lontano 1930 scriveva che gli italiani sono moralmente pigri. insomma. Guardi, io sono dell'idea, Flavia, mi scusi, io sono dell'idea che le intercettazioni. Mi scusi un attimo. Molto difficile. Sì, d'accordo, guardi. Flavia, io sono d'accordo sul fatto che le intercettazioni telefoniche debbano essere il più estese possibile. Lei la deve smettere come se fosse a senso unico, perché veramente a volte irrita un po'. Flavia, guardi, che io la penso come lei sulle intercettazioni, dovrebbero essere estese. Una cosa sono le intercettazioni, quello che possono fare i giudici, naturalmente, una cosa è la pubblicazione delle intercettazioni, che è un altro discorso. Prego. Questo non sarebbe mai accaduto, smettiamola, noi non viviamo in un paese normale, come diceva D'Alema, noi viviamo in un paese moralmente molto molto d'accordo, basso. Abbiamo capito, la ringrazio. TG3. Grecia ferma per lo sciopero, ancora violenti scontri, alta tensione dopo la perizia che attribuisce la morte del ragazzo a un proiettile di rimbalzo. Produzione industriale in forte calo, meno 6%, l'Istat conferma Italia in recessione, negli Stati Uniti via libera, gli aiuti per l'auto. Berlusconi apre a Casini, per lui spalancate le porte del PDL, nessun dialogo con questo PD, non manderemo altre truppe in Afghanistan. Veltroni, drammatici dati sulla produzione, basta con l'ottimismo di facciata, servono misure per evitare la depressione. Sequestrate tutte le partite di carne irlandese, nessun pericolo per l'Italia, assicura il governo con il TG3 nell'azienda irlandese contaminata. Nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica, Italia scende al 44esimo posto su 57 paesi, meglio di noi anche India e Brasile. Truffe allo Stato e investimenti mafiosi nel settore del turismo pilotati dal carcere, 7 arresti a Trapani. Allora, poi uno si domanda a cosa serve la commissione di vigilanza RAI, lo ripetiamo ogni sera, la commissione di vigilanza RAI e non l'AI, come ho detto prima, andrebbe abolita, cancellata, cambiata, distrutta, levata di torno. Quando si sente un consigliere, ma ci sono altre frasi, ne ho presa una però, Alessio Butti del PDL, dire che c'è una repubblica separata, che è quella di Rai 3, e che bisogna prendere provvedimenti contro Fabio Fazio perché non può fare quello che vuole, e segnare, come ha fatto fino ad oggi, un 6-0 per l'opposizione, invitando solo persone che non appartengono al centrodestra. Queste persone vanno alla commissione di vigilanza Rai solo per finire sui giornali, sulle agenzie di stampa, eccetera eccetera. Sky TG24. Nord-ovest è sotto la neve, viaggiate solo se necessario, avverte il Viminale. Produzione industriale in netto calo, l'Istat certifica la recessione. A picco il settore auto italiano, c'è l'accordo per salvare i colossi americani. Afghanistan, Berlusconi dice no a nuove truppe, mano tesa all'ex alleato Casini. Patto D'Alema Veltroni, il Partito Democratico fa quadrato per ripartire. Italia a contatto con Air France, i vertici di CAI hanno incontrato Spinetta. Sciopero generale da ancora guerriglia, in Grecia resta alta la tensione. Falsi infermieri lavorano anche in sala operatoria, blitz e arresti a Cosenza. Rapporto di Legambiente, Italia fra gli ultimi nel rispetto del protocollo di Kyoto. Champions, alla Juve basta un punto, la Fiorentina cerca il pass per l'UEFA. Eccoci qui, finiti i titoli, 800 24 00 24, Tonino Di Pietro, formidabile in comunicazione, 10, il voto massimo, oggi ospite di Gian Antonio Stella Faccia a Faccia su Radio 3, sentite il paragone che fa con la vicenda dell'Illinois, il governatore democratico arrestato perché aveva tentava di vendere il seggio di Obama a qualche altro democratico, e l'Italia. Immagine se fosse successo in Italia. Immediatamente la classe politica avrebbe detto: quel magistrato comunista, fazioso, che si è messo a entrare sulla questione politica e sui politici. Ci sarebbe stato questi gli amici di questo governatore. Gli avversari avrebbero detto: ha ragione, c'è bisogno di una riforma sulla giustizia. Subito dopo avrebbero detto: non si può più avere quel procuratore, dobbiamo cambiarlo. Lì lo possono anche fare, perché tanto viene nominato direttamente. In America nessuno viene in mente che quando questo procuratore ha incriminato un politico, la colpa è del procuratore. A nessuno viene in mente di togliere il fascicolo dal procuratore. A tutti viene in mente di dire: che porcate che ha fatto questo, allontaniamolo dalla politica. Sai dove l'hanno messo questo signore? In galera. Da noi sai dove lo mandano? Nelle istituzioni, a farsi le leggi per non farsi processare. Capite come funziona la storia? Ma qui le intercettazioni che lì vengono fatte, sei mesi capire, fatto, senza sei mesi. Esatto, per sei mesi su questo un governatore in carica, e mentre parlava anche con Obama. Qua se l'avessero fatta, oggi staremmo discutendo di come modificare le intercettazioni. Là stanno discutendo se metterla a Guantanamo o a Alcatraz, capito? Alcatraz non c'è più. Ce lo fanno apposta. Alcatraz resta la cosa più bella, perché poi naturalmente non è vero che stanno discutendo se metterlo a Guantanamo oppure ad Alcatraz, come dice Di Pietro, perché l'hanno già rilasciato sotto cauzione il governatore dell'Illinois, e però resta questa formidabile frase, questo modo di comunicare che secondo me è da 10 all'ode. Se metterla a Guantanamo o a Alcatraz, capito? Alcatraz non c'è più, ce lo fanno apposta. E poi uno si chiede perché l'Italia dei Valori è all'8%, perché c'è un personaggio come Di Pietro che è un grandissimo comunicatore. E per esempio, quando a un certo punto Stella gli dice: Di Pietro, ma lei non esagera un po', parla di Berlusconi come di un corruttore politico, insomma, bisognerebbe moderare certi toni, non parlare con voce così grossa, insomma, non esagerare. Sentite come risponde Di Pietro. Ma io non voglio continuare a parlare di lui, perché mi fanno le domande su di lui e poi dicono che parlo sempre di lui. No, però, scusi, onorevole Di Pietro, però uno dei problemi della politica italiana è che a volte i toni sono troppo alti. Allora lo dico piano piano. Per me è un corruttore politico, è uno che si compra la politica per conto suo. Ma non lo posso, non lo dico alto alto, perché sennò c'è un tono alto. Guardate che è veramente il numero uno, è strepitoso, assolutamente. E la questione morale esiste o non esiste? Intanto da un colpetto al Partito Democratico, sentite. La questione morale, cioè vale a dire il fatto di chi sta all'interno delle istituzioni e si fa gli affari suoi e comunque di una cerchia di amici suoi, è vero o non è vero che coinvolge anche la sinistra? Ed è vero o non è vero che questi problemi ce li abbiamo in Toscana piuttosto che in Campania, piuttosto che in Calabria? Mi fermo qui per par condicio. Lei sotto ci gode? Ma che ci gode? Io sono un cittadino italiano che vorrei che non ci fosse né a destra né a sinistra. 800 24 00 24. Intanto il Partito Democratico, il segretario del Partito Democratico, vorrebbe far fuori il presidente della regione Campania Bassolino, ma non ci riesce. Uno dei responsabili del Partito Democratico in Campania, che è l'ex ministro Nicolais, ha detto questa mattina in maniera molto candida, viva Dio, una delle poche volte in cui i politici si esprimono a ruota libera con sincerità, ripeto, ha detto questa mattina a viva voce che Bassolino oggettivamente rappresenta un problema per il partito e che si è un po' logorato il rapporto tra Bassolino e la Campania. Sentitelo, Nicolais. Devo dire che è stato un grande leader che ha dato dei segnali forti, sia quando ha fatto il sindaco per la prima volta, sia quando ha fatto il presidente della regione. Purtroppo poi col tempo si è un po' logorato. Nicolais, si rende conto che ne sta parlando al passato? È stato? Eh sì, purtroppo è così, perché oggi abbiamo delle difficoltà. Uno dei grandi problemi che abbiamo a Napoli è che c'è ormai un sentire comune di una voglia di cambiare, una voglia di cercare di innovare il sistema, e il rapporto si è logorato, e questa è la ragione per cui oggi discutiamo anche di un rilancio delle amministrazioni. Si è logorato, cosa bisogna aspettare di più? Ma c'è una battaglia politica in atto, un braccio di ferro ormai da tempo, tanto che Nicolais dice Bassolino non sarà candidato nemmeno all'Europea, almeno dice lui, poi bisogna vedere. Bassolino ormai l'anno prossimo va via, io credo che non abbia nessuna intenzione di essere candidato europeo. Io penso che questa è stata un'esperienza importante per il territorio che mo è andato a finire, diciamo, anche lui stesso dice che è un ciclo che va a chiudersi, quindi non penso che ci siano delle possibilità di una candidatura europea. Non penso ci siano possibilità di una candidatura europea. Intanto c'è grande caos nel mondo della giustizia, perché un importante giudice di Milano, come il presidente della Corte d'Appello, dice che i giudici ormai sono talmente politicizzati in Italia che tanto vale a questo punto l'elezione diretta dei giudici come negli Stati Uniti. In realtà poi negli Stati Uniti non è vero che tutti i giudici sono eletti direttamente, alcuni sono nominati, poi vedremo come funziona il sistema americano, perché se ne parla molto in queste ore. E poi c'è l'Associazione Nazionale Magistrati, che con il suo segretario lancia l'allarme, l'ennesimo allarme, sulle intercettazioni telefoniche, dicendo il provvedimento del governo, che ancora deve essere presentato ufficialmente, favorisce la mafia. E perché? Lo vedremo dopo, perché sostanzialmente, eliminando alcuni reati, gli stessi mafiosi sarebbero avvantaggiati. Per adesso godiamoci Maurizio Crozza sulla vicenda del film censurato alla Rai. A proposito di Mountain, ma perché hanno censurato Brokeback Mountains, no? Ma io non capisco. Ora io dico, non vuoi far vedere gli omosessuali che si baciano? D'accordo, non vuoi farlo vedere. Vabbè, ma allora proietta Bambi. Ma cosa trasmetti in Brokeback Mountain? È come se in Gola Profonda facessero vedere solo le scene in cui lei scende dalla macchina. Non funziona. E poi, cazzo, censuri un film che ha vinto 3 Oscar e poi mi lasci vedere Fiorello e Del Noce che si baciano. Che cazzo hanno vinto Fiorello e Del Noce, il telegatto? Subito gli ascoltatori. Riprendiamo da un'ascoltatrice con cui parlavamo prima in apertura di trasmissione, molto arrabbiata, mi sembrava, per la questione delle intercettazioni. La possibilità, cioè, che un disegno di legge sulle intercettazioni, un futuro disegno di legge sulle intercettazioni che ancora non conosciamo, possa favorire i mafiosi. Flavia era da Messina. Buonasera ancora, Flavia. Buonasera. Allora, adesso mi dica bene, mi spieghi bene. Sono un po' in me, però sono ancora arrabbiata perché, francamente, sono un po' come Rhett Butler che disse a Rossella, francamente me ne infischio di quello che può fare Bassolino, con tanti disoccupati che c'è in Italia. Questa è anche l'informazione che fa incazzare, mi scusi il termine, gli italiani, perché gli italiani oramai siamo alle prese di una recessione che fa andare in depressione. Poi l'Italia, anche se gli alberghi, anche se gli alberghi sono al completo, Gli alberghi sono, se lei viene qui a Taormina, non è che gli alberghi sono al completo, sono gli stessi italiani che hanno potuto spendere sempre. O c'è depressione economica o recessione o inflazione, sono gli italiani che possono spendere tutti, ma gli operai o il ceto medio, oppure anche lei che è giornalista, non è che ha potere d'acquisto come uno che guadagna, non so, come Bassolino. Cioè, francamente, che Bassolino rimane disoccupato, agli italiani, agli stessi napoletani, direbbe da dire, francamente me ne infischio. Vabbè, l'unica cosa che aveva da aggiungere è questa qua su Bassolino. Beh, ma non è la questione delle intercettazioni, mi dica... Ma a parte le intercettazioni, ma noi viviamo in un paese che non è normale, come diceva D'Alema, è un paese veramente molto anormale. In che senso? No, io telefono da una zona dove che per qualsiasi cosa uno deve sempre avere una specie di padrino, tra virgolette. Dall'università a un posto di lavoro, al posto letto in ospedale. Oggi lei ha sentito quello che è successo in Calabria, falsi medici e falsi infermieri. Sì. Insomma, cioè tutti i giorni ce n'è una. È la normalità, purtroppo. È la normalità nella anormalità. Assolutamente, di questo paese. Assolutamente. E poi, insomma, oggi ho sentito anche quello che diceva Di Pietro. Certo, Di Pietro magari è un po' esuberante nel suo parlare, ma comunque dice la verità, dice tutto quello che gli italiani vorrebbero sentirsi dire, magari con un italiano con i congiuntivi giusti. Lei l'ha votato? Io ho votato Veltroni. Di Pietro no, la prossima volta che voterà. Nella segreteria del partito dove abito io, sì, mettevano sempre le copertine dell'Espresso quando si parlava male del PDL. Questa volta non ha avuto il coraggio di mettere la copertina dell'Espresso. E questa la dice lunga, veramente. Ci credo. Di come siamo messi male. Ma insomma, adesso l'ho un po' delusa Veltroni e preferisce Di Pietro? No, non è che preferisco Di Pietro. Preferisco un po' di onestà in questo paese. Vabbè, allora? E allora? Preferisce Di Pietro? No, non è che preferisco Di Pietro. Preferisco un po' di onestà. Onestà anche per quanto riguarda l'informazione. Perché in questo paese l'informazione, molte volte bisogna andare a prendersi i trafiletti, cioè dei giornali. Ieri sono morti 2 ventenni, sì, eppure la notizia non è che ha scalpito un po' le coscienze delle persone. Però Bassolino, che rimane senza lavoro, questo fa gridare a caratteri cubitali i telegiornali, i giornali. No, vabbè, insomma, adesso non esageriamo. Beh, insomma, se ne parla, perché comunque, sono lotte, lotte politiche, se ne parla. A lei non dà fastidio che 2 ventenni muoiono per motivi di lavoro? Beh, certo. Invece di andare all'università oppure andare in discoteca, muoiono per motivi di lavoro. Questo le sembra un paese normale? Dovremmo aprire una discussione molto, molto ampia. Perché sono morti, Flavia? Non mi ricordo poi, tra l'altro. Incidenti sul lavoro. Anzi, addirittura presso mi sembra una pressa in un'acciaieria, ecco. Sì. Insomma, poi dicono che gli italiani non vogliono più fare i lavori e appunto questo un po', è vero, sono, però sono due ventenni che appunto facevano lavori pericolosi. Sì, in generale è vero che certi lavori gli italiani non vogliono più farli, alcuni lavori, adesso non sto parlando del lavoro che facevano questi due ragazzi, ma insomma in generale alcuni lavori non... Comunque anche se uno va a lavorare in un pub, morire sul posto di lavoro non è un paese normale, è un paese anormale. Sì, un certo tasso di morti sul lavoro esiste dappertutto. Ma siamo già a quota quasi 1000. No, ma per carità, non voglio dire che non sia un problema, non mi fraintenda. La ringrazio molto, Flavia. Prego, buona serata. 19:38, andiamo in provincia di Pistoia. Stefano, buonasera. Niente, volevo parlare appunto della questione morale, come diceva giustamente la sua ascoltatrice poco fa, che addirittura le lezioni di moralità vengano fatte da Berlusconi è veramente curioso, quantomeno curioso. Cioè, un individuo che quanto a processi lui stesso ha detto a 900 magistrati che l'hanno, 900 giudici. Sì, al di là della speculazione politica di Berlusconi e del fatto che il centrodestra, ma in particolare il centrodestra fiorentino, cerchi di approfittare di questa situazione, sì. Però bisogna dire che il criterio per giudicare la moralità delle persone non può essere quello dei procedimenti a carico di queste persone. Mi perdoni, Stefano. Perché... No, questo è vero, però è anche vero che i procedimenti a carico di determinate persone, sì, più che ricoprono cariche istituzionali, sì, dovrebbero essere portati in fondo, non bloccati dai vari Lodi Alfano e compagnia cantante. Ma qui apriamo un altro fronte. Naturalmente, da questo punto di vista, come lei sa, Berlusconi pensa che ci sia una guerra da parte di una parte, scusi il gioco di parole, insomma, di una parte della magistratura contro di lui. A questo proposito, resti con me, le faccio ascoltare su inquisiti e candidati quello che ha detto questa mattina, sempre a viva voce, uno degli avvocati di Berlusconi, che come sapete è anche un parlamentare, Nicolò Ghedini. Non possiamo consentire ai magistrati di far loro le liste elettorali o di far loro le scelte politiche, perché basterebbe un'indagine qualsiasi per impedire una candidatura o non consentire di svolgere l'attività politica. Quindi io credo che le garanzie debbano valere per tutti. Non ricordiamoci il processo SME, che è durato 15 anni e poi Berlusconi è stato assolto perché il fatto non sussiste. Stefano, come risponde, insomma, che ne pensa di queste cose di Ghedini? Io dico questo, no? Un candidato, lui lo dice per forza perché fa parte del partito che siede in Parlamento con il maggior numero di inquisiti e qualcuno condannato. Voglio dire, se non è tirare l'acqua al proprio mulino, questo non so come si possa definire. Di Pietro, che lei ha definito curiosamente prima, però ha ragione, nel suo italiano colorito e maccheronico, però dice quello che gran parte degli italiani, tutti gli italiani no, perché se Berlusconi ha oltre il 40% di consensi è segno evidente che in questo paese molti non la pensano come Di Pietro, no, se lui ha l'8%, giusto o no? Sì, no, ma io non so... È notorio quello che io penso di Pietro, almeno per chi ci ascolta, naturalmente. Stavo semplicemente dicendo che è un magnifico comunicatore. Poi sulle cose che ha detto si potrebbe discutere a lungo. Il paragone con gli Stati Uniti è assolutamente improprio, totalmente improprio. C'è un altro sistema, c'è un altro modo di eleggere i giudici. Certamente non è che le cose finiscono sui giornali in maniera impropria come succede in Italia. Il passaggio tra il giudice e la politica è molto complicato, al contrario di quello che avviene in Italia. Insomma, ci sarebbe da discutere di moltissime cose, Indubbiamente. E dunque fare un paragone con gli Stati Uniti parlando di Alcatraz, anzi risentiamolo, va. Se metterla a Guantanamo o a Alcatraz, capito? Alcatraz non c'è più. Ma ce lo fanno apposta, Vabbè, insomma, questo è cabaret puro, però, Stefano, mi perdoni, perché, perché a Alcatraz, cioè, cosa c'entra? È già fuori, il governatore dell'Illinois è già fuori sotto cauzione. Sì, è già fuori su cauzione, ma stiamo parlando di cabaret con il nostro premier, ma mi perdoni, Guardi, cioè, che quando fa cabaret Berlusconi lo diciamo, anzi l'ho appena fatto alla presentazione del libro di Vespa, lo diciamo continuamente, per cui qual è il problema? Non, No, il problema è che chi è che la politica è spesso cabaret. Coloro che ricoprono cariche istituzionali dovrebbero avere, io ho 44 anni, va bene, e mio padre è vecchio democristiano, no? Effettivamente io dicevo la Democrazia Cristiana era un partito corrotto di qui, di là, di sotto e di sopra, tutto il male possibile, però una cosa l'avevano veramente, erano dei politici, va bene, e avevano un decoro e un rispetto delle istituzioni diverso da quello che vediamo oggi, e questo purtroppo in questo paese è diventato una regola, e la regola, cioè non ci sono più le coerenze di una volta. Questi dicono qualsiasi cosa. Ha ragione Travaglio quando dice: no, ma Berlusconi questo lo dice, ma non lo farà mai. Poi lo fa e nessuno dice niente. Va bene, la ringrazio Stefano. Intanto, a proposito di Berlusconi, cosa ha detto la presentazione del libro di Vespo? Una raffica di cose interessanti. La Costituzione si può cambiare e poi l'ultima parola spetta ai cittadini. Ci sono due votazioni con 6 mesi di tempo l'una dall'altra, poi a decidere se la riforma sarà giusta saranno i cittadini. Questa è la democrazia a proposito della riforma della giustizia. Questo mi pare ineccepibile. E poi ha parlato di separazione degli ordini. Ritengo sia giusto separare gli ordini perché un pubblico ministero deve far parte di un ordine diverso e deve avere gli stessi diritti e doveri dell'avvocato, cioè andare dal giudice, bussare alla porta e prendere un appuntamento. In questo modo i cittadini sono garantiti. Questa è un'espressione che usa spesso. Una volta diceva anche bussare alla porta e entrare con il cappello in mano da un giudice. Su Villari sono stato accusato oggi da un tale Orlando di aver lavorato per l'elezione di Villari, che non ho mai conosciuto e con cui non ho mai parlato, come possono testimoniare i miei capigruppo. Ma insomma, non è che per forza per diciamo tramare per l'elezione di Villari bisogna parlare con Villari stesso. Ancora, mai al tavolo con questa sinistra, fin quando sarò al governo non mi siederò mai a un tavolo con questi individui, parlando del Partito Democratico. Evidentemente ha ragione Bonaiuti quando dice che sono marxisti-leninisti. Ci vuole un cambio di generazione per avere da noi una socialdemocrazia. Non accetto di parlare con questo tipo di persone. E il Partito Democratico aveva accusato Berlusconi appunto di non avere argomenti e di non poter dare lezioni sulla questione morale. Alberto da Milano, buonasera Alberto. Buonasera. Allora, io intervengo per la frase che l'intervista che è stata fatta di Pietro. Lei l'ha definito un ottimo comunicatore, devo dire che è stata una delle poche volte che ha detto qualcosa di chiaro, perché molto spesso non è così chiaro. Quale sarebbe? Dove sarebbe la chiarezza, Alberto? No, me lo dica lei, io non ce l'ho vista. Però, insomma, no, magari... la chiarezza del concetto, allora mi piace l'ironia, non l'avevo colta. Comunque, il concetto dice i magistrati negli Stati Uniti non vengono messi immediatamente alla gogna come vengono messi in Italia qualunque attività svolgano. Allora, il mio pensiero nei confronti di quello che Di Pietro ha affermato è ovviamente di grande dissenso, nel senso che, scusi il gioco di parole, in Italia i magistrati sono stati talmente tanto strumentalizzati, sono loro che hanno strumentalizzato talmente tanto il loro ruolo, che oramai evidentemente qualunque azione fanno hanno perso di credibilità nei confronti dell'opinione pubblica qualora inizino qualunque attività nei confronti di un politico. Questo è il mio pensiero, lo dico da laureato in giurisprudenza, lo dico da persona che ha fatto il vice pretore onorario, perché purtroppo nei tribunali chi lavora veramente sono questi disgraziati che vengono pagati a udienza, che sono appunto i vice pretori onorari oggi definiti in un'altra maniera, ma sostanzialmente giudici non togati, che non hanno quindi superato nessun tipo di concorso. Andiamo all'osso, Alberto, però. Scusa la divagazione. Allora, per andare all'osso, io ritengo che la magistratura italiana sia in una condizione in cui sicuramente debba essere riformata, e Di Pietro è inutile che citi gli Stati Uniti come un esempio, perché non hanno mai fatto azioni politiche negli Stati Uniti attraverso la magistratura, cosa che invece è avvenuta in Italia. Questo è il concetto che voglio esprimere, e nello stesso tempo voglio dire che Di Pietro tira l'acqua al suo mulino quale ex magistrato, ma è stato il primo che ha strumentalizzato la sua posizione di magistrato per poi diventare politico. Vabbè, d'accordo, la ringrazio. Andiamo a Modena. Maurizio, buonasera. Non c'è. Lorenzo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Aspetti una causa da mia moglie, perché mi sequestra tutte le sere dalle 18.35 alle 20.45. Senta, per la lodevole campagna che sta facendo per le province. Per l'abolizione delle province, sì. La polizia, bisogna cambiare due volte la legge, Ma scusi, se un decreto legge che dimezza i consigli regionali, comunali, provinciali, comunità montane, marini, idraulici e stagnari, lei che ne pensa? Ma sì, certo, sono d'accordo con lei, Lorenzo, non è che ci siano solo le province. Quindi bisogna cambiare la legge costituzionale per... Certo, ci saranno, e poi diminuirebbero gli assessorati, le immagini della spesa, molto più delle province, che ormai sono radicate. Chi è esperto come me di amministrazione sa che non bisogna mai cambiare niente, se no costa il triplo. È vero, è vero, è vero. Lorenzo, lei ha ragione, per cambiare le cose probabilmente c'è un costo, però ci sono dei calcoli, ormai è da tempo che organismi vari, think tank di i più disparati, centri studi si occupano di questa questione delle... province e ormai i calcoli sono stati fatti, evidentemente il risparmio dell'abolizione delle province è superiore ai costi che si dovrebbero sopportare per l'abolizione stessa delle province. Sicuramente ci sono dei costi, come lei dice, non è un ragionamento sbagliato, ma sono tante. Lei è giovane, tanti anni fa, per levare la scala mobile e non darla ai dipendenti, si inventarono i bot, cioè invece delle 3-4 mila lire di aumento mensile gli davano, io ero dipendente e mi davano questi bot, no? Pensi che non erano stati così bravi nemmeno a mettere in memoria i numeri, per cui specialmente a Napoli ne stampavano a montagna, lo Stato per non pagare 10-20 miliardi di quei tempi, parlo degli anni 70, ha speso centinaia di miliardi perché poi la Banca d'Italia li pagava a vista senza poter controllare. Ecco, quello succede. Che gli uffici si intaseranno di persone che devono studiare. No, sicuramente, sicuramente ci sono complicazioni come in ogni cosa in Italia, però insomma adesso di fronte a queste complicazioni non ci si può arrendere, per cui sono d'accordo con lei, si possono eliminare anche le comunità montane eccetera eccetera, però anche le province. La ringrazio, onorevole Franco Barbato, Italia dei Valori, buonasera. Buonasera a voi. Onorevole Barbato, leggo in un'intervista al giornale che lei dice per entrare nell'Italia dei Valori non basterà più il certificato penale pulito. Ma di che c'è bisogno? Ma guardi, il certificato penale pulito lo hanno a volte anche camorristi, affaristi, delinquenti, politicanti, gente con un passato oscuro, per cui... Alla fine è un limite facilmente superabile per chi vuole. Che bisogna fare? L'esame del sangue? Che bisogna fare? No, ognuno di noi ha una storia, ha delle radici, ha un passato, ha un percorso, ha una faccia. E quindi con le facce pulite, con le facce delle persone per bene, si può fare una buona politica. È semplice. Ho capito, ma lei dice non ci vorrà più solamente il certificato penale, ma che cosa? Cioè, il vaglio su cosa si deve basare? Su non so, essere stati, aver fatto parte di un certo partito, aver fatto certi disegni di legge? Chi decide poi? Il segretario Di Pietro, un comitato? Chi decide? Per quanto mi riguarda, deve decidere il percorso di anche una persona che è stata impegnata in politica, anzi io sono dell'avviso, a differenza di Grillo che dice no, bisogna che ci siano persone che non abbiano mai partecipato alla politica, devono essere novelli eccetera, io invece no, dico è preferibile invece avere a che fare con persone che abbiano un percorso politico che lo si può già valutare, cioè chi è stato un buon amministratore, chi ha gestito bene i governi locali, le amministrazioni, i comuni, le province, gli enti pubblici. Bene, questo è un biglietto di visita fortissimo, importantissimo, ma ci sono persone invece che vengono in politica solo per prendere, per arraffare, per rubare, e allora questi saltano da un partito all'altro, hanno interesse semplicemente a prendere. Bene, questo è il percorso politico che non ci piace. Queste persone potrebbero avere anche una fedina penale immacolata, ma sicuramente non sono persone utili alla buona politica e men che mai utili per i cittadini. Difficile distinguere, comunque resto dell'idea che sia difficile distinguere su questa base. Senta, una cosa, il capogruppo al Senato del PD Finocchiaro dice che le persone inquisite, cioè indagate, così sembra dire da Finocchiaro, devono farsi da parte. A me sembra un tantinello esagerato, perché insomma essere indagati, come lei sa bene, in realtà anche essere condannati in primo grado, in secondo, eccetera, eccetera, non significa niente, significa dare in questo caso un grande potere ai giudici, no? Perché dare un avviso di garanzia a qualcuno magari potrebbe significare escluderlo da una competizione elettorale, o no? Guardi, 15 minuti fa in aula ho avuto uno scontro con l'ex ministro Landolfi. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare, il quale mi accusava di aver sostenuto il presidente di un'associazione nel Casertano che amministra i beni sequestrati, confiscati alla Camorra, perché chiedevo che venisse data la vigilanza, la scorta per questa persona. Ebbene, la questione morale è proprio questa, è prendere posizioni su questioni molto precise. Io gli ho risposto, è ovvio che tu non sei d'accordo che io sostenga chi si batte e chi sta dalla parte dello Stato, perché a te hanno arrestato il tuo assistente parlamentare, hanno arrestato il tuo braster d'affarle all'ex sindaco di Mondragone, sei invischiato nella... Non mi faccia querelare, Barbato, alcune cose le dica in aula, perché se no se le dice qua poi l'Andolfi ci querela. No, io le ho dette in aula e gliele ripeto, perché io dico fatti, io non invento e non parlo a caso. Vabbè, maestro, non stiamo parlando di Landolfi, stiamo parlando di un'altra cosa. La questione morale è questa. La questione cioè morale. Anche gli inquisiti, allora, secondo lei, non si possono, non, certo, non si devono candidare. Se noi in Parlamento, ad esempio, ritornando al Parlamento, mutuassimo la normativa che regola lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni camorristiche, ecco, avere un deputato come Landolfi avrebbe determinato lo scioglimento del Parlamento, tanto per intenderci, ecco perché le ho fatto queste esempio. Sì, ho capito. E allora, essere invischiati in indagini di Camorra, aver avuto rapporti con camorristi, con delinquenti, con affaristi, ma di che cosa vogliamo parlare? Con questa gente non bisogna prendere neanche un caffè, altro che candidarli. Senta Barbato, un'altra cosa, lei se la prende e poi concludo e la ringrazio. Dice, ho denunciato Bertolaso, ma che le ha fatto povero Bertolaso? Secondo gli italiani sta risolvendo la questione dei rifiuti a Napoli, lei lo denuncia, perché lo denuncia? È falso. Non è vero che lui sta risolvendo il problema dei rifiuti a Napoli. Il problema dei rifiuti a Napoli si è risolto perché erano state aperte le discariche di Sant'Arcangelo e di Savignano e quindi per questa ragione i rifiuti hanno trovato uno sbocco. Vabbè, qualche merito ce l'avrà pure poi Roberto Laso, no? No, ha responsabilità quanto è più forse di Bassolino, che insieme a lui hanno gestito negli anni passati, hanno divorato 2 miliardi di euro. No, Barbato, Bertolaso uguale a Bassolino, adesso nella gestione dei rifiuti a Napoli mi pare esagerato. Barbato. Noi dobbiamo cominciare ad abituarci a usare il termine responsabilità. Bertolaso governava il commissariato emergenza rifiuti in Campania negli anni passati, allo stesso modo di come ha fatto, cioè ma, di come no, ha governato Bassolino. Ma non è così. Non è, detto ciò, la cosa grave invece è che Bertolaso, anziché... Perché l'ha denunciato lei? L'ho denunciato perché sta gestendo la cava di Chiaiano dove vuole aprire una discarica. Sì. Io non sono contrario all'apertura di discariche, però se a Chiaiano il suo vice, ovvero il generale Giannini, ha denunciato pubblicamente su un'intervista a Repubblica che sono stati scoperti nella cava di Chiaiano 10.000 tonnellate di amianto. Sì. Ebbene, dopo che sono state scoperte queste 10.000 tonnellate di amianto, lei sa benissimo che non si può estrarre, trattare e manipolare. Allora? Allora, Bertolaso o il commissariato emergenza rifiuti hanno dato incarico ad una ditta di lavorare, di trasportare questo amianto, di prelevarlo con mezzi, diciamo, meccanici. E a lei perché lo denuncia? Per questo? Lo denuncio perché, innanzitutto, se c'è un disastro ambientale come questo, Bertolaso, che è anche commissario per la bonifica, deve provvedere alla bonifica di quel territorio. Ho capito, ma mica l'ha messo lui l'amianto là. Provvederà alla bonifica del territorio, se mai fosse vero che c'è l'amianto. Non capisco la denuncia. La denuncia perché non può metterci là l'immondizia lasciando il terreno sotto inquinato dall'amianto. Ma poi la denuncia dove, dice? Alla Procura della Repubblica di Napoli, dove sono stato 15 giorni fa dal procuratore Lepore e dal procuratore antimafia Roberti, con cui ci eravamo già confrontati sull'argomento. E di cosa accusa lei Bertolaso? Di ignorare la questione della... No, Bertolaso, tutto questo che stava facendo con le ditte che aveva incaricato, non l'aveva neanche denunciato all'autorità la scoperta di questa scarica abusiva di amianto, sì, che è l'elemento più cancerogeno. L'ha denunciato sa quando? Dopo 15 giorni, ovvero dopo che un comitato dei cittadini aveva fotografato e filmato l'amianto ed era andato a denunciarlo in procura a Napoli. Barbato, la denuncia, altrimenti noi non avremmo neanche saputo che lì c'era l'amianto, che se adesso si inquinano le falde acquifere, che avvelena tutti i napoletani, che avvelena il sottosuolo. Ho capito. Sappiamo l'amianto come può essere pericoloso. Sappiamo, però No, no, tu, sono tutte cose che vanno verificate, anche la presenza lì dell'amianto, in quale quantità, in quale... Guardi, lo hanno dichiarato loro, non lo stiamo dichiarando. No, il tasso di pericolosità, voglio dire, di questo... Di... Il suo vice, ovvero il generale Giannini, ha dichiarato che ci sono 10.000 tonnellate di amianto e non allo stato solido, la cosa più grave. No, Barbato, io non capisco, continuo a non capire la denuncia. Comunque, approfondiremo questa questione... Disastro ambientale, anziché bonificare, questi invece ci scaricano su altri rifiuti, cioè stanno facendo un disastro ambientale, stanno perpetrando ancora, per cui a Napoli tutti i napoletani, quelli che abitano a Chiaiano, quelli che abitano a Mignano e Marano, moriranno di tumore. Questo secondo lei per colpa, secondo lei per colpa anche di Bertolaso, questo mi sembra, è questo che mi sembra esagerato. Poi no, il fatto che per colpa solamente di Bertolaso, perché Bertolaso contemporaneamente oltre a gestire l'emergenza rifiuti, gestisce la bonifica in Campania. Ho capito, ho capito. È responsabile della protezione. Va bene, civile. Va bene, la ringrazio Barbato. 1958 800 24 0024 era l'onorevole Franco Barbato, parentesi Italia dei Valori, chiusa parentesi. Mentre Luttazzi, Daniele Luttazzi dice sono ancora esiliato perché sono un cane sciolto, andiamo a sentire il TG5. Tutto il nord sotto una coltre di neve, disagi negli aeroporti di Linate e Torino e sulle autostrade, 1000 tir fermi a 20 miglia, ancora acqua alta a Venezia. Cala la produzione industriale e scende il PIL, ma è stato boom di presenze negli alberghi per l'Immacolata, crescono l'export alimentare e le vendite negli ipermercati. Berlusconi, nessun dialogo con questa sinistra antidemocratica, riformeremo la giustizia anche cambiando la Costituzione, poi deciderà il popolo, le grandi opere si devono fare. Sono state tutte sequestrate le 90 partite di carne suina irlandese importata in Italia, nuovi controlli alle frontiere per le carni bovine. La mamma di Ciccio, Ettore Pappalardi, torna a chiedere giustizia per i figli. La polizia punta di nuovo l'indice verso il padre, ha mentito. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, 46 anni di matrimonio e tanta voglia di stare ancora insieme. Lei annuncia l'addio alle scene e Raimondo ribatte, sarò single ma solo in TV. Bene, sentiamo anche il TG1. Accordo degli Stati Uniti per salvare il settore auto in Italia, la Confindustria parla di crisi lunga e l'Istat di recessione. Berlusconi, nessun dialogo con questa sinistra, porte aperte all'UDC ma nel PDL, il PD discute di rinnovamento. Sequestrata la carne e la diossina irlandese, Zamponi e Cotechini ok al cenone ma a bollire sempre il latte crudo, il ministro Zaia al TG1. Il nord sotto la neve, voli cancellati, traffico a rilento sulle autostrade, al sud mareggiate, domani ancora brutto tempo. Arrestati in Calabria 70 falsi infermieri, lavoravano in ospedale anche in sala operatoria, diplomi comprati per 10.000 euro. Cinema, internet e letteratura, il film Twilight sbanca il botteghino e trascina le vendite della saga. Bene, molti messaggi sull'intervento di Franco Barbato dell'Italia dei Valori, giuro che dalla prossima elezione voto Italia dei Valori, esprimono concetti di valore puro, scrive un ascoltatore, non si sa se con ironia o altro, è ovvio che il responsabile dell'avvelenamento è Bertolaso, poiché lui responsabile della bonifica non se ne sta occupando, dice un altro. Cosa ride, rivolto a me, un altro ascoltatore, Alfredo, 10.000 tonnellate di amianto su un treno che non viene bonificato e lei dice che bisogna vedere la pericolosità. E un altro ancora, stai a vedere che finisce a Napoli, i rifiuti era meglio tenerli sotto casa, e altri messaggi ancora, sempre sull'Italia dei Valori e sull'intervento prima di Barbata. Andiamo a sentire Stefano da Genova, buonasera. Buonasera, niente, due cose. La mia prima era che ho sentito che per il G8 alla Maddalena spenderemo 400 milioni di euro. Sì. Per preparare questo G8 mi sembra che, non so con la social car quanto è costato le casse dello Stato, mi sembra uno sproposito. Sì, lo ha detto anche Crozza facendo una battuta ieri sera a Ballarò, però mi perdoni Stefano, per carità, non so quali siano i criteri per capire se stiamo spendendo troppo o no sul G8, sull'organizzazione del G8. Credo che un G8 costi l'organizzazione, la sicurezza, gli ospiti, mi sembrano polemiche veramente di basso profilo. No, però voglio dire, basterebbe che lo facessero su una nave da crociera della costa, in mezzo al mare, non spenderebbero una lira. E tutto sommato sarebbero sicuri, certamente, una cosa e l'altra, no? Ma guardi, io glielo dico perché non so davvero se si possa parlare di spreco in questo caso. Credo che l'organizzazione di un summit importante come il G8 costi in generale. Poi che si possa risparmiare, sarà possibile pure risparmiare, non lo so. Insomma. No, però forse tutto sommato alla gente interesserebbe più forse in questo momento avere qualcos'altro. Comunque, sì, però questo, Stefano, questo qua, allora a questo punto eliminiamo, non so, eliminiamo direttamente il Parlamento, cioè facciamo decidere tutto a una sola persona senza parlamenti, così almeno risparmiamo tutto. Non, sono un po' polemiche pretestuose. È un attantum due giorni, voglio dire, 400 milioni dura due giorni un G8, mi sembra un po'. Speriamo che facciano delle strutture che poi resteranno, se non altro, in uso alla popolazione del posto, sono altro quello. Volevo dire poi un'altra cosa per quanto riguarda l'Italia. L'Italia vorrei fare delle denunce, io sono perfettamente d'accordo. Però, cioè, voglio dire, mi sembra che l'Italia stia facendo un po' gioco a fregare un po'. Sentiamo un attimo, mi scusi, torno subito a lei. Berlusconi, presentazione del libro di Vespa. Finora a Napoli, lo Stato è tornato a fare lo Stato. Non era sopportabile che un piccolo gruppo di contestatori bloccasse la vita dei cittadini campani. Proprio sulla. Va bene, giustizia. Allora Stefano, stava dicendo? No, stavo dicendo che l'Italia dei Valori, giustamente, sta facendo una politica un po', perché cosa succede? A fregare consensi al Partito Democratico, sì. È un alleato un po' strano, no? Perché poi in realtà il bacino è quello, cioè si stanno, cioè, mi sembra un po' che sia un alleato un po' particolare del Partito Democratico, no? Tende un attimino a fare degli interessi più personali che della coalizione. Vabbè, sì, queste sono. È quello che sta accadendo, è sotto gli occhi di tutti, insomma. E questo non porta a nessun, perché il vero nemico che dovrebbe essere tutto sommato il centrodestra, eventualmente Berlusconi. Ah, guardi, certamente non si può dire a Di Pietro di non fare opposizione nei confronti di Berlusconi, ma insomma, ognuno fa il suo gioco, usa le sue carte. E Di Pietro lo sta facendo benissimo da questo punto di vista, non c'è dubbio. Francesco da Milano, buonasera. Buonasera. Io semplicemente volevo fare una piccola considerazione riguardo a quella che è la politica italiana, perché mi sembra che in qualche modo sia come un'azienda che cerca di accaparrare denaro di tutti per foraggiare se stessa. Io mi chiedo a un certo punto, continuando di questo passo, alla fine gli unici interventi che alla fine per questa crisi sono stati in qualche modo chiesti è continuare nella spesa, incentivare nella spesa, come per dire risolvetevi i problemi da soli. Dall'altra parte sentivo settimana scorsa che si parlava sempre in radio riguardo invece cosa sta facendo Sarkozy in Francia spingendo le opere pubbliche. Probabilmente noi in Italia non riusciamo a spingere queste opere pubbliche perché in passato comunque la politica non ha mai cercato di creare comunque un filo conduttore per arrivare a farle queste opere pubbliche. Guardi Francesco, la settimana prossima ci sarà il CIPE, che è un comitato importante, che deciderà l'investimento di 16,6 miliardi di euro in infrastrutture. Naturalmente non è il massimo che si può fare, siamo in grande ritardo, però è una prima cosa, poi vedremo come andranno distribuiti questi soldi. Andiamo a Modena da Maurizio, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire sulla questione dell'abolizione delle province, che ho sentito anche la campagna di Libero lo Spot, la cifra dei 16 miliardi di risparmio che si avrebbero abolendo le province. Io ho visto degli studi, le ricerche che per primi hanno dato queste cifre, però partono dal presupposto che abolendo le province si licenziano tutti i dipendenti e spariscono tutte le funzioni che vengono adesso fatte dalle province. Questo a meno che non si pensi di licenziare tutti i dipendenti delle province, non è affatto vero che si risparmiano 16 miliardi di euro. No, 6 miliardi credo che fosse il calcolo di Libero, non 16 miliardi. 6 miliardi. Ma anche con 6 miliardi li si raggiungono solamente licenziando i dipendenti. Non credo. Guarda, io ho fatto un calcolo, dovrebbe essere che se non si licenziano i dipendenti sparisce l'apparato politico, giusto? Sì. È quello che gira intorno all'apparato politico. Guarda, più o meno si arriva a una cifra, io così andando a propria spanne, contando le province, quanto possono costare un assessore che guadagnano 2.500 euro al mese, gli assessori delle province, si arriva a una spesa sui 100 milioni di euro all'anno, abolendo l'apparato politico. Sì, sì. E i dipendenti passerebbero in parte ai comuni, in parte alle regioni. Cioè, secondo lei qua la cifra di 6 miliardi si raggiunge solamente cancellando, diciamo, i dipendenti, cosa che naturalmente non si può fare. Certo, e poi c'è anche la questione che le province adesso hanno ereditato dall'ANAS la manutenzione di tutte le strade ex statali, qualcuno alle buche le dovrà pur chiudere. No, beh, quello è una questione diversa, è una questione di passaggio di competenze, di regolare le competenze in modo diverso, cosa che naturalmente dovrebbe avvenire se uno decide di cancellare le province. Però quello sul risparmio dei costi è un tema interessante da approfondire. La ringrazio. Marco da Firenze. Marco, buonasera. Sì, buonasera, grazie per Radio 24 che mi fa parlare. E io vorrei esprimere un appoggio a Barbato e a Di Pietro, Forza Di Pietro, che mia madre era anche abruzzese, siamo tutti con te. Bene, benissimo. E per quanto riguarda poi invece le social card che sono state menzionate, le social card, quelle per aiutare i poveri con 3 lire, diciamo, e oltretutto anche una beffa. E io volevo dire che lei è uno di questi poveri che ha 3 lire, come li definisce? No. E come fa a dire che è una beffa? È una beffa perché è sotto l'occhio di tutti che c'è la gente che sta poco bene, che sta male. Come sempre, d'altra parte. Magari adesso c'è qualcuno in più, ma insomma sono statistiche di più, anche difficili da mi fare. Mi sembra di più, o perlomeno. E però abbiamo gli alberghi pieni, nel weekend, per esempio, appena trascorso, strade intasate, alberghi pieni, eccetera, eccetera. Sì, ma le due facce della crisi, come dire. No, c'è la gente che sta poco bene. Sì, ma certo, non c'è dubbio. Tutti i modi, la cosa che voglio capire è perché lei parla. Perché lei. La mafia, la camorra. Ma che c'entra questo? Ma, alle fasciste. Perché lei parla. Ma che c'entra, Marco? Non diciamo stupidaggine. Perché lei parla di beffa? Non ho capito. Secondo me è una beffa perché è uno schiaffo per la gente che soffre e gli dice: vedi che soffre, devi soffrire ancora di più. Ma come? Gli dai 40 euro, soffri di più. Sì, perché è la classica cultura vaticana, no? Ma che c'entra il Vaticano? Marco. La gente deve soffrire perché altrimenti non può andare Marco, in chiesa. Marco, con la cultura vaticana ci salutiamo. 20:15, traffico, torniamo tra un secondo. Nuovo navigatore satellitare TomTom Go con tecnologia IQ Roots. Il percorso più veloce ogni giorno. Vi presenta... Che strada fa? Dunque il maltempo continua a condizionare il traffico di queste ore su buona parte della rete viaria nazionale, piove un po' ovunque, ci sono ancora nevicate in atto al nord. Lungo la 22 del Brennero, lunghe code, anche se da 10 ore i chilometri a punto di coda sono scesi a 6 da Verona Nord a Afi in direzione del confine di Stato proprio a causa delle abbondanti nevicate da Afi e fino al Brennero. È stata invece riaperta per i mezzi pesanti la 9 Lenate Como Chiasso fra Como Sud e Chiasso in direzione Svizzera, ad eccezione dell'uscita merci di Chiasso, che invece rimane chiusa in uscita dall'Italia per i camion. Lungo il tratto Campano dell'Autosole, 4 km di coda provocati da un incidente fra la diramazione per Capodichino e l'innesto con la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Ci sono ripercussioni anche per i tanti mezzi in viaggio sulla stessa 3 nei pressi proprio dell'innesto con l'Autosole verso Salerno e poi rallentamenti sempre in direzione Salerno fra Napoli Sud e San Giorgio a Cremano. Torniamo al maltempo perché nevica anche lungo la 23 Palmanova Tarvisio, fra Pontebba e il confine di Stato, poi sulla 6 Torino-Savona da Ceva a Savona e sulla 5 Torino-Osta-Montebianco fra Autoporto e la statale 26 Dir. Numerosi tratti, specie quelli prossimi alle coste, sono anche interessati da raffiche di vento forte e poi c'è nebbia lungo l'autosole fra Roncobilaccio e Barberino. Dunque massima prudenza alla guida, buon viaggio e appuntamento fra mezz'ora. La Zanzara. Bene, 20:16, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Abbiamo Carlo da Milano, Ermanno da Trento, Giovanni da Milano, Gabriele da Milano e altri ancora. Intanto stiamo cercando di risolvere l'arcano dei 6 miliardi o 16 miliardi di risparmi con l'abolizione delle province. Fra poco vi daremo una risposta. Vi facciamo però riascoltare il Di Pietro sulla vicenda dell'Illinois, il paragone che ha fatto questa mattina Di Pietro tra l'Italia e gli Stati Uniti, a mio parere assolutamente improprio, sentite. Immagine se fosse successo in Italia, immediatamente la classe politica avrebbe detto: quel magistrato comunista, fazioso, che si è messo a entrare sulla questione politica e sui politici. Ci sarebbe stato questi gli amici di questo governatore. Gli avversari avrebbero detto: ha ragione, c'è bisogno di una riforma sulla giustizia. Subito dopo avrebbero detto: non si può più avere quel procuratore, dobbiamo cambiarlo. Lì lo possono anche fare perché tanto viene nominato direttamente. In America nessuno viene in mente che quando questo procuratore ha incriminato un politico politico, la colpa è del procuratore. A nessuno viene in mente di togliere il fascicolo dal procuratore. A tutti viene in mente di dire: che porcate che ha fatto questo? Allontaniamolo dalla politica. E sai dove l'hanno messo questo signore? In galera? Da noi sai dove lo mandano? Nelle istituzioni a farsi le leggi per non farsi processare. Capite come funziona la storia? Ma qui le intercettazioni che lì vengono fatte... Sei mesi. Esatto, per sei mesi su questo un era governatore in carica e mentre parlava anche con Obama. Qua se l'avessero fatta, oggi staremmo discutendo di come modificare le intercettazioni. Là stanno discutendo se metterla a Guantanamo o a Alcatraz, capito? Alcatraz non c'è più. Ma ce lo fanno apposta. Beh, quella su Alcatraz è eccezionale. Ho già detto prima che qui non si tratta né di Alcatraz, come dice Di Pietro, né di Guantanamo, che poi cosa c'entra Guantanamo con un'indagine negli Stati Uniti, perché è già libero su cauzione. Non voglio fare entrare in queste polemicucce italiane un giornalista molto serio che lavora negli Stati Uniti da anni come Maurizio Molinari, che è corrispondente della Stampa, che saluto, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Maurizio, innanzitutto partiamo da quello che ha detto Di Pietro, non per parlare di Di Pietro, per carità, però mi sembra che già sia libero, no, il governatore, su cauzione. Quanto ha pagato per uscire dal carcere? $4,500. $4,500, cioè 4.000 euro, una cosa del genere, 4.200 euro. Adesso non so sì, le cifre. Sì, una cifra molto modesta. Come mai? Ma questo prevede la legge dell'Illinois per i reati che gli erano stati contestati. Il primo a registrare la difficile situazione, quasi imbarazzante, è stato Barack Obama, affrettandosi a chiedergli di dimettersi, anche perché lui, libero su cauzione, continua a essere governatore e quindi paradossalmente potrebbe scegliere il nuovo senatore dell'Illinois. Ecco, questa è una cosa molto curiosa. Non si dimette. Perché non si dimette? Lo ha detto anche? Sì, perché lui sostiene di non aver fatto nulla di male, che faceva semplicemente delle consultazioni per scegliere il miglior candidato per sostituire Barack Obama al Senato a Washington. Quello che voglio chiederti è questo, poi parliamo un po' del sistema americano di elezione dei magistrati, come funziona insomma rispetto all'Italia, sono cose magari arcinote, però alcuni dettagli possono essere utili. Questo scandalo potrebbe... coinvolgere, all'inizio non sembrava, poi alcune notizie uscite oggi potrebbero invece portare la situazione in una direzione completamente diversa, potrebbero coinvolgere anche il neo presidente? Beh, l'interrogativo è legittimo e tutto nasce dal mea culpa fatto da David Axelrod, che è lo stratega politico del nuovo presidente, il quale alcune settimane fa aveva detto che Obama aveva parlato con il governatore dell'Illinois sulla scelta del nuovo titolare del seggio vacante. E il punto è che il team di Obama ha sempre negato che queste conversazioni si fossero avvenute e Axelrod questa mattina ha fatto mea culpa, ha detto: mi sono sbagliato a dire quelle cose. Insomma, il mea culpa è un po' imbarazzante, soprattutto da parte di un personaggio come Axelrod, che durante i 23 mesi della campagna elettorale non ha commesso un singolo errore. E infatti il grande stratega della vittoria di Obama, che incappa in un errore non da poco, anche perché mi sembra che Obama si sia subito affrettato un po' a scaricare, no? A scaricare il governatore, mentre comunque emergono contatti, come inevitabile che sia, il governatore dell'Illinois, dello Stato di Obama, durante la campagna elettorale, probabilmente anche dopo questi contatti sicuramente ci sono stati a quel livello. Anche perché a confermare questa ipotesi c'è il fatto che pare che Obama volesse che il governatore scegliesse come senatore Valerie Jarrett, un'imprenditrice di Chicago rampante a lui molto vicina, ma il governatore non lo fece. Tutto questo lascia intendere che un minimo di coinvolgimento c'è stato. Senti Maurizio, invece il giudice che accusa, che ha fatto una conferenza stampa, ha presentato questo dossier, questo capo d'accusa di 76 pagine, è è nato a Brooklyn negli Stati Uniti, che personaggio è? Chi l'ha nominato innanzitutto? E qui andiamo al cuore del paragone tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ma Patrick Fitzgerald nasce a New York, un avvocato procuratore, si è fatto le ossa assieme a Rudy Giuliani nella lotta ai clan mafiosi, poi si è occupato di terrorismo, Al-Qaeda dopo gli attacchi del 93 ed è stato nominato 7 anni fa dalla Corte distrettuale del Nord Illinois procuratore dell'Illinois e in quanto tale che ha svolto negli ultimi anni alcune delle inchieste più spettacolari contro i personaggi più potenti come l'ex governatore dell'Illinois Ryan, anche lui coinvolto in scandali, ma anche come il CIA Gate, cioè lo scandalo che ha chiamato in causa il vicepresidente Cheney e che si è concluso con la condanna del suo capo di gabinetto Lewis Libby. I giudici negli Stati Uniti, a livello di questo giudice qui, chi li nomina? Perché si parla sempre di elezione diretta, in realtà l'elezione diretta dei giudici avviene per quello che riguarda i giudici statali, non per i giudici federali, no? Esatto, i giudici federali, soprattutto quelli ai quali vengono assegnati degli incarichi particolari, vengono nominati da commissioni. Nel caso specifico di Fitzgerald si è trattato della Corte Distrettuale del Nord Illinois, ma quando fu ad esempio il caso del CIA Gate, sì, gli fu assegnato dall'allora ministro della giustizia John Ashcroft, che disse: io non posso gestire questa cosa, fra i migliori procuratori in circolazione c'è lui, sarà lui il procuratore speciale. Invece l'elezione diretta avviene, poi dipende da stato a stato anche qui, però per la maggior parte degli stati c'è l'elezione diretta dei giudici, quelli che si occupano di altri reati, diciamo di reati che avvengono nei singoli stati e che non sono reati, diciamo, di tipo federale. Esattamente, cioè chi compone la corte distrettuale che ha nominato Fitzgerald è eletto dal popolo. Ah, ecco. E dunque questa commissione poi nomina, invece chi è che è nominato direttamente da Bush? E poi c'è il baglio del Senato, c'è il passaggio al Senato, eccetera. No, in da Bush, nel senso sono, dal presidente. No, in questi casi sono i giudici federali che vengono nominati dal presidente, che poi vanno al vaglio del Senato, dove ci sono le audizioni. Bisogna tenere presente che questi giudici speciali, cioè special prosecutor, come loro li chiamano, dei quali si parlò molto all'epoca del Sexgate, sì, ad esempio, quando era Kenneth Starr, sono un'istituzione molto cara agli americani, perché praticamente quando un ministro, il presidente degli Stati Uniti o una commissione giuridica gli assegnano questo incarico, di fatto loro diventano il volto della giustizia, è il singolo magistrato del quale l'America in quel momento si fida per risolvere il caso. È corretto dire, come ho sentito oggi nel dibattito che c'è in Italia, che l'elezione diretta dei giudici può avvenire perché naturalmente negli Stati Uniti c'è un grande senso dello Stato, cioè dire il giudice, anche se viene eletto e dunque ha sicuramente delle tendenze politiche, poi a un certo punto si estranea completamente da quelle tendenze politiche e comunque gode di un prestigio, poi naturalmente dipende dai casi, gode di un prestigio che è quello dell'intero Stato in questo caso. Beh, il momento nel quale i cittadini votano il giudice e esprimono un giudizio su come lui ha amministrato la giustizia, e se lui è stato equo viene confermato, se invece ha causato delle spaccature molto forti e soprattutto delle contestazioni sull'applicazione della giustizia, e questo lo espone al rischio di non essere riconfermato. Bene, grazie a Maurizio Molinari, corrispondente della stampa negli Stati Uniti. 20:26, andiamo a sentire gli ascoltatori e andiamo in provincia di Vicenza. Alberto, buonasera. Ah, buonasera, signor Cruciani. Dica. Ho sentito parlare prima, durante la trasmissione, molto di Pietro e del gruppo, sull'etica, la moralità di questo personaggio, del suo gruppo, eccetera. Ora, passando alla pratica, tramite lei, è possibile sapere come mai una ventina di giorni fa circa il Parlamento europeo hanno discusso la richiesta del giudice Folleo di usufruire delle intercettazioni telefoniche su D'Alema riguardante la famosa scalata Unipol BNL. Ora, contro hanno votato logicamente maggioranza, opposizione, eccetera, eccetera, per far sapere di parare il proprio deretano, sono tutti d'accordo. Però i signori Di Pietro si sono astenuti. Gli unici che hanno votato a favore sono stati quei quattro poverati di radicali. Ora, questa decantata moralità etica di Di Pietro e del suo gruppo, in pratica, dove va a finire? Guardi, Alberto, francamente, a parte bisognerebbe cercare di utilizzare altre parole quando si interviene. Ma a parte questo, non, francamente non lo so. Non, Non mi interessa andare a vedere come il Partito di Pietra ha votato al Parlamento europeo sulla questione di Unipol, delle intercettazioni. Non faccio queste operazioni per dare addosso a Di Pietro. Giovanni da Milano, buonasera Giovanni. Buonasera Cruciani, piacere sentirla. Niente, io ho chiamato perché mi ha veramente infastidito la telefonata dell'onorevole Barbato. Mi sembra. No, è uno spaccato assolutamente fenomenale, secondo me, di un parlamentare italiano, di un modo di fare, di un modo di pensare. Perché? No, mi dà fastidio proprio anche il modo quando si esprimono, con questa cattiveria di voler mandare in galera la gente a tutti i costi. Questo povero Cristo si trova lì a Napoli, vabbè, e allora perché non sono intervenuti prima per dire che non stava facendo bene il suo lavoro a Napoli. Si riferisce alla denuncia nei confronti di Bertolaso. Sì, esatto, ma naturalmente molto fastidio. Ma è una delle tante follie della politica italiana, tutti contro tutti. Esatto, qui di questo passo non si fa più da nessuno. Parte un minimo perché di nessuno vuole santificare Bertolaso, non è questo il punto, però insomma adesso pensare che l'inquinamento di una discarica per la presenza di amianto sia colpa sua e che violando qualsiasi regola continui ad avvelenare tra virgolette le persone tenendo là l'amianto, non denunciando questa situazione, mi sembra una cosa impensabile. Comunque ognuno può fare quello che vuole, fare tutte le denunce che vuole, andare dai procuratori eccetera. No, qui si manda in galera tutti quanti, poi dopo se danno quattro soldi a questo non vanno bene, se fanno quest'altro non vanno bene, le discariche non le vogliono, però vogliono la Napoli pulita, cioè a questo punto dove vogliono arrivare questo non ho mica capito. La ringrazio. Un ascoltatore, Giovanni Ferrari da Milano, mi scrive: la nomina dei giudici americani, temo che il corrispondente della stampa non conosca bene il tema. Giovanni, effettivamente anch'io non ho colto bene alcune distinzioni, mi ero documentato nel pomeriggio, i giudici federali negli Stati Uniti, la nomina dei giudici, quelli nominati ai sensi dell'articolo 3, il giudice federale nominato dal presidente e poi la nomina deve essere comunque confermata a maggioranza del Senato e poi la nomina dei giudici statali, ci sono poi gli altri giudici federali, insomma ci sono molte distinzioni sulle quali sarà il caso di tornare con più precisione, con maggiore dettaglio. La ringrazio di questo SMS. Andiamo a Milano da Carlo, buonasera. Buonasera. Dunque, una cosa, io credo che il successo di Pietro nelle sue discussioni sulla magistratura e quant'altro non credo siano soltanto dovuti al suo linguaggio colorito. Dunque, peraltro bisogna dargli atto che l'Alberto di Alcatraz mi sembra abbastanza indovinata, però quanto al fatto che credo che invece Di Pietro interpreti molto bene l'esigenza che questo paese ha di una maggiore giustizia in termini proprio di questione morale. Credo che questo sia un problema centrale per il nostro paese. Allora io mi chiedo perché attaccare il dipietrismo in senso, come dire, linguistico, quando invece mi sembra che Di Pietro faccia emergere un problema che tra l'altro il suo 8% testimonia abbia successo. In questo io credo che il contraltare anche magari a questo atteggiamento retorico dovrebbe essere svolto probabilmente proprio dall'informazione. Cioè intendo dire, un paese dove la questione morale è importante, l'Italia lo è, credo che debba avere una informazione, per esempio la vostra trasmissione mi sembra che vada in questa direzione, grazie anche ai microfoni aperti, che sia, come dire, importante. E invece da questo punto di vista credo che l'informazione oggi non lavori verso una direzione appunto di moralizzazione del paese. Cioè intendo dire, se un giudice americano può essere addirittura giudicato per il suo operato, probabilmente l'opinione pubblica è a conoscenza anche dell'operato di questa persona. Non credo che le persone vengano, cioè come si fa a giudicare l'operato di una persona? Cioè cosa faccio? Consulto un database di quante cause sono andate in porto? No, cioè quindi insomma, concludendo, credo che piuttosto che criticare il dipietrismo in termini di linguaggio, andrebbe invece approfondita la questione morale anche attraverso l'utilizzo dell'informazione. Grazie. Naturalmente andrebbe approfondito quello che dice Di Pietro quando c'è da approfondire. Quando uno dice Berlusconi è un corruttore politico, vogliamo ascoltare di nuovo il Di Pietro che sussurra, il Di Pietro che dice Berlusconi, lo dico piano, Berlusconi è un corruttore politico. Uno dei problemi della politica italiana è che a volte i toni sono troppo alti. Allora dico piano piano, per me è un corruttore politico, è uno che si compra la politica per conto suo. ma non lo posso, non lo dico alto alto, perché sennò c'è un tono alto. Ma insomma, quando uno si esprime in questo modo, poi non è che la sostanza resti... Non resta granché di sostanza, Carlo, mi scusi. Il rischio è questo, però voglio dire, credo che la gravità della situazione, ripeto, sia ancora nel fatto di, come dire, sottovalutare invece l'importanza di avere una... di puntare Dio sulla questione morale, non paese come sì, sì, no, ma ho capito. La ringrazio. Rosario da Napoli, buonasera Rosario. Buonasera a lei, dottore. Dica. Allora, no, una precisazione in merito a quello che ha detto l'onorevole Barbato. Prima di tutto, se mi si consente giusto un secondo, volevo ricordare che l'onorevole Barbato è stato onorevole in un partito che in Campania negli ultimi 15 anni sta al governo di regione, provincia e comune. Lui per giunta viene da un territorio definito dai media il triangolo della morte, cioè Nola, Cerra, tutto quel territorio là che è stato devastato da purtroppo le discariche, dai problemi, dei rifiuti che sappiamo. Ce le dice, ci sono responsabilità anche della compagine politica, avendo responsabilità diretta nell'amministrazione. Io credo che l'onorevole Barbato lo sa bene e mi assumo responsabilità di quello che dico. Lui viene da un partito, ho detto prima, che ha governato per 15 anni, sta ancora tuttora al governo di regione, provincia e di vari comuni. 15 anni mi sembra un po' troppo, perché dove era prima Barbato, prima dell'Italia dei Valori? Udeur, sì. Sì, esatto. Sì, già, attualmente, vero, sì. Attualmente l'Udeur governa ancora in Campania. Poi il problema di Sant'Arcangelo di Monte e di Savignano Irpino, la verità è che non ci fu all'epoca la volontà politica di venire incontro a Bertolaso, perché c'era un ministro che sappiamo bene chi, sì, che diceva certo, no, certo. Sembrava un po' il Di Pietro di oggi, no a tutto e tutti, e quindi non ci fu la volontà politica del centro-sinistra di avallare determinate scelte. Oggi c'è stata una volontà politica, si sono aperte le discariche e quindi voglio dire... Però lì Barbato parlava di un'altra questione, che era quella dell'amianto, Sì, quella di Chiaiano. Sì, sì, sì. Però lui diceva che Bertolaso non ha fatto niente perché ha aperto solo due discariche, che le ripeto, dottor Cruciani, erano nel vecchio progetto di Prodi. Sì, certo, ma questo abbiamo parlato. Però le accuse di Bertolaso e di Barbato riguardano la questione dell'amianto. Cioè la questione delle bonifiche. Forse Barbato non sa che le bonifiche, l'attuale subcommissario sulle bonifiche non è Bertolaso, ma è un signore nominato da Bassolino che scade il 31 dicembre 2008 il mandato delle bonifiche. Quindi voglio dire, la verità è questa, e la lascio e la ringrazio per lo spazio, è che oggi purtroppo invece di parlare gli onorevoli tutti, c'è una destra e c'è una sinistra, di come trovare un calmiere dei compensi che magari ci vedrebbe dare una mano sull'economia, si cerca di dare qualche imbeccata mediatica per avere notorietà. Quindi probabilmente l'onorevole Barbato, accusando e denunciando Bertolaso, probabilmente si dovrà accaparare un po' di stampa in questi giorni. Va bene, Rosario, lei quando parla di calmiere di compensi di che parla? La solita discussione sugli stipendi dei politici, di cosa parla? Certo. Come c'è un cammino di parola degli stipendi, sembrerebbe che nemmeno gli amici del centrodestra che avevano attaccato la cassa della politica stiano facendo nulla per dimezzare. Perché li chiama amici? Perché li chiama amici? Perché sono di centrodestra, mi occupo anche di ambiente per AN a Napoli. Ho capito. Bene, grazie. Lei ha ragione, non mi sembra che dopo aver gridato tanto alla casta poi si stia facendo molto per risparmiare da questo punto di vista. Ermanno da Trento, buonasera Ermanno. Sì, buonasera, io tutto il giorno che ascolto Radio 24 essendo in macchina, no? E il problema che mi pongo è sull'onorevole Di Pietro. In pratica lui ha affermato che non è sorpreso dalla questione morale, che la giunta di centro-sinistra di Firenze non abbia gestito in maniera etica, non stia gestendo in maniera etica e morale l'amministrazione. Lui è sorpreso del fatto che solo adesso, così in ritardo, sia emersa questa situazione. Sì, c'è un'intervista oggi al Libero in cui il titolo è proprio questo. Di Pietro, esatto. Due punti, mi sorprende che non sia scoppiata prima. Allora, siccome il pubblico ministero Di Pietro che sta facendo, secondo me, ancora questo tipo di lavoro, la domanda che vorrei fare è questa: per quale motivo, se lui sapeva questa situazione, era coerente di questa situazione, che quindi anche il centro-sinistra possa amministrare male, perché comunque, e non in maniera etica, tutti i politici comunque sono delle persone, degli uomini, con le loro debolezze, no? Per quale motivo lui alle ultime elezioni, anziché andare a viaggiare da solo, si sia messo assieme al Partito Democratico, al centro-sinistra, pur sapendo che non c'era questa etica, questa moralità? Questo mi viene da domandare. Beh, guardi, Ermanno, se uno vuole andare a pescare le contraddizioni in quello che dice Di Pietro, ce ne sarebbero a bizzeffe, per cui una di queste è quella che ci sta dicendo lei. La ringrazio. Teodoro da Mantova. Teodoro, buonasera. Buonasera a lei. Un flash, Teodoro, insomma, perché purtroppo siamo quasi in conclusione. Sì, ma infatti sarò rapido. Guardi, come l'ascoltatore che diceva poc'anzi, anche io ascolto la vostra trasmissione in macchina, e oggi ho vissuto, come ne altri, veramente della fantascienza. Nel senso, partendo dall'intervento, quello più buffo, che è stato dell'onorevole che ha avuto in linea circa una mezz'ora fa, che ho rimosso. Barbato, sì. Ecco, anche questo qui mi viene a dire che anche i terroristi, no, che anche i camorristi hanno la fedina penale pulita, cioè bisognerebbe avere una faccia pulita per poter governare, per poter fare delle cose, ma questo personaggio qui, che è stato eletto evidentemente da voi, nel senso che io sono anni che ormai esercito il diritto di non voto, nel senso vado lì, mi faccio dare la scheda, poi dico... Va bene, andiamo al sodo, Teodoro, di che vuole parlare? Ecco, allora, quando si parla di moralità, sì, dove sta la moralità? Quando si è governati da gente che non dovrebbe più far parte di un governo né di un senato, perché è inquisiti. Allora, uno che è inquisito, Teodoro, le faccio osservare che uno che è inquisito non è condannato, e c'è una buona percentuale di coloro che vengono inquisiti e che vengono indagati che poi risultano innocenti o vengono scagionati. Le faccio osservare solo questo. Per questo modo che mi sta dicendo il modo di pensare, secondo me è errato, perché è inquisito. E quindi dovrebbe presentare le dimissioni. Benissimo. Come minimo per riprendiamo questo discorso domani. L'avevo invitata a un flash ma lei non mi ha ascoltato, pazienza. La Zanzara @radio24.it, ci sentiamo domani 18:30 anche con Francesco da Milano e Giuliano da Milano, che non sono potuti intervenire perché l'ascoltatore di prima è stato un po' lunghetto. Ci sentiamo domani 18:30.